figge. Mi son un rapper senese, ucci bravo e ucci furbo de tutti. Mi chiamo Menime, ma ve prego di non menarmi, che mi causa i miei problemi. Ve ringrazio. De che? Ma dunde semmo? Un mondo gai oggi, ovunque nemmo che è in controllo. Alesia è importante, ma lei anche a libertà. Te fa tutto quello che te pa, te fa. Senza fa domani scinche, non te fa matia. Invece, noi che ci limiti a limitazione, e non ti riesci a vive senza danni a qualcun. E anche se ti non ti fai apposta, che a proibizione de sosta. Ma se passi fitto, ma non ti devi ci pagare. Non ti penadela, non ti pesca barca. Manco ti pesciurti se non ti paghi chi. Annacciani, non prova a favor ping. Se li ti vi arriva, devi passare là. Chi non se fa casi, non se rompe obelin. O a se sera e se arve quando se ve. Di non ti per parla, mi che son chi a guida. O a caccia fea, o bigetto se ti uve. Non se per anade, chi anade la fa cusci. Non se per fa niente senza da. Inga bunga, plausibile, veloce spiegazione. Non se per fa un passo senza giustificazione. Non se per anade, chi anade la fa. Non se per fa niente senza da. E mia bunga plausibile, veloce spiegazione. Non se per fa un passo senza un'autorizzazione. Parliamo ceo, in povio non se per permette di cacciare palanche. Ma se che serva nu e per pigia manco dai banche. Se qualche di un le ricco nu che mette se parola. Chiunque per paga in tre mesi pigia una pistola. Ma senta notte funda, a te ferma, a giustizia. E di inuti che ho posto giusto in amicizia. Se inuti che la luce che funziona come deve. Ti paghi mentre un ladro te saluti o baby. E non ti penadela, non ti pesca barca. Manco ti pesciurti se non ti paghi chi ti devi annacciani. Non prova a favor pin. Se li ti vi arriva devi passatela. Chi non se fa casi non se rompe o belì. O a se sera e se arve quando se ve. Di non ti per parla amiche su chi a guida. O a shorty fea che se ne andiamo a dormire. Non se per anade, chi anade la fa cusci. Non se per fa niente senza da. Inga bunga, plausibile, veloce spiegazione. Non se per fa un passo senza giustificazione. Non se per anade, chi anade la fa cusci. Non se per fa niente senza da. Inga bunga, plausibile, veloce spiegazione. Non se per fa un passo senza un'autorizzazione.